ci siamo purtroppo perduti qualche giornata, ma c'era la festa, c'erano un sacco di cose in corso, per cui così si è fatto. Grazie. Chissà se E stiamo poi ti dirò, mancando. a me piace un sacco questa cosa di cambiare gli orari, dell'imprevedibilità, dell'anti-routine. Io adoro tutta questa cosa qui che è fantastica. Il surfare sull'onda del caos mi è troppo affine, capisci? Per cui quando capita che dobbiamo cambiare. Ciao Patman! Ciao Batman. Eccolo, ciao a tutti. Ma sempre così sei stato PR o ci sei diventato? Così, in che senso? Surfista, surfista. Sì, guarda, io ho tentato tante volte di essere ripetitivo nella vita, ma non riesco, non ce la faccio. Io non ho una giornata uguale all'altra. Ci sono due must fissi nella mia vita: più il fatto che mangio e più o meno becco sempre gli stessi orari, e il fatto che tutti i giorni insegno yoga. E quella roba lì c'è, è un must da tanto, ma tutto il resto poi è trasformativo in divenire. E tu parti? E io mi sono perso, mi sa, la domanda iniziale che stavo ancora arrivando. Guarda che Diceva sei che lontanissimo, Pat. mi sentite? Tanto Ite, distante. ite. No, eccomi, adesso dovreste sentirmi. No, diceva Pierre che gli piace surfare sul caos, nel caos, sul caos. E quindi raccontava che ogni suo giorno è diverso dalle altre. Tu come sei messo rispetto a questo? Allora, nasco come un programmatore con la tendenza alla goffaggine. Quindi della serie, diciamo che se a Pier piace surfare sul caos, anche io surfo sul caos, ma più che altro perché un'onda mi ha investito e io sono caduto faccia avanti sulla tavola e in qualche maniera sto surfando. Non si è capito come, è anche una scena abbastanza comica da guardare, però non Sei cado dalla buffo. tavola. Immaginatevi una scena alla Scooby-Doo per intenderci, ci sta bene secondo me. Quindi, boh, un po' e un po', diciamo. Insomma, provi a surfare, poi cadi, poi ti rialzi, poi surfi, insomma. Diciamo che a me piace stare sulla terraferma. Comunque mi piace tantissimo, l'ho riscoperto come un piacere molto importante, soprattutto negli ultimi anni. Però mi è capitato molto spesso, vuoi per come sono fatto, vuoi un po' per gli eventi di vita, di surfare sul caos. E devo dire, anche se non lo apprezzo tantissimo, capisco anche che va fatto in determinati casi, perché, come dicono i surfisti, l'onda va seguita, comunque va accompagnata, va vissuta. Giusto. Il mare Effettivamente, va sì. vissuto. Sì. Beh, Va va bene, vedi? dominato più che altro. Va dominato. No. Ascoltate, ragazzi, ma Sì. come vi sembra essere qui alle 17? Non è... Come Un vi fa po', un po'. sentire? Beh, bene. Cioè, a me entusiasma proprio questa cosa, no? Cioè, mi sa di novità. Cioè, il bello di rinnovarsi e di essere out of the routine è questo, che una stanza fatta alle 17 è una cosa insolita, a me eccita, mi fa bene, capisci? Poi è sempre di corsa, perché alle 6:30 devo andare di corsa a insegnare, però voglio dire, è sempre, come dire, un eterno rinnovo. Ma E come mai infatti hanno... mi chiedevo come mai, come eri riuscito a tenere tutte le altre 103 room che abbiamo fatto nei tempi addietro. Ah beh, è stato un grandissimo, immenso sforzo. Grandissimo, immenso sforzo. Va bene, però oggi Ma ho non, pensato. aspettami, aspetta Ah, Davide, ma scusa, non uno scusa. sforzo perché che roba brutta, no, Sì. è stata riorganizzare tutte le cose in quel modo lì è stato un grande sforzo, ma io sono molto flessibile, sai, non ho mai detto quasi di no a nulla nella vita. Per cui credo che sia un presupposto ormai che mi accompagna proprio come caratteristica. E quello un po' che si richiama anche il topic di oggi, no? Che abbiamo messo la fragilità insieme alla sensibilità. Che sono due Ti cose sembra? diverse. Sono due cose diverse, oppure, cioè, questo, leggerlo così, tu dici bene, sono due cose diverse. Potrebbe essere un koan proprio, un oppositum, cioè un applauso con una mano sola. Ok, qualcosa che dici, no, sono due cose diverse, ma Io invece vorrei spingermi sul fatto che la fragilità e la sensibilità possano anche essere la, come dire, a Patrick piace molto la divinità Giano, no? Possano essere le due facce della stessa personalità. Eh beh, diciamo che secondo me capita che tra l'altro fragilità e sensibilità trovino una correlazione fra di loro. Cioè, capita spesso che persone molto sensibili si vadano poi a autodefinire, a definire o essere definite fragili, proprio perché quella tempesta, quasi la definirei, di sensibilità investe al punto da poter creare degli sconvolgimenti anche dal nulla. Dico la mia, allora, possono, secondo me allora sono due cose diverse. La sensibilità fa riferimento, secondo me, al sentire, al sentire un po' quelle che sono le esperienze di vita, no? Io le posso sentire tanto, le posso sentire poco, le posso sentire medie, mi viene questo termine, magari, vabbè, ci siamo capiti. La fragilità, secondo me, invece fa riferimento a come noi reagiamo di fronte alle situazioni, nel senso rimaniamo impassibili oppure crolliamo. Non so se poi le due cose possono anche esistere insieme, nel senso che io sento tanto e mi rompo. Oppure posso sentire tanto e rimanere con questo sentire. Non so, come vi sembra questa, quello che ho detto? Ma è da riflettere, perché dici sempre un sacco di cose belle e giuste, e a volte mi ammutolisci, perché hai sempre una view che è sempre molto lontana dalla mia e mi accende sempre molto nella riflessione. Il fatto di pensare che la fragilità possa essere una risposta in una determinata situazione decisamente non è contestabile, perché è proprio così, è verissimo. La fragilità è la proprietà che noi, se pensiamo a un'immagine, almeno io nel mio immaginario collettivo, attribuisco a un vetro. Il vetro è frangibile, la fragilità è qualcosa che si rompe in molti pezzi. Tuttavia, se pensiamo ai giapponesi, loro attuano sulle cose tipo tazze, piatti, rotti, quella che viene chiamata kintsugi. Il kintsugi, per esempio, è una pratica attraverso cui c'è una colla per la ceramica, i vasi, no? Vengono riassestati e le parti delle parti rotte, dove ci sono le cicatrici, vengono colorate di oro, cioè questa, la pasta che viene utilizzata, il collante può essere, può avere variante bianca o oro, per lo più oro. Quando voi la vedete ricomposta, quella tazza è incredibilmente più bella e più affascinante di come era prima inizialmente. È quasi che la fragilità possa essere rappresentata come qualcosa che ci fa splendenti e più belli, perché quelle cicatrici possono essere dei fili d'oro che passano dentro al nostro cuore. Che ne pensate? Sì, conoscevo l'arte del kintsugi o kintsugi. Di solito la utilizzo come metafora con le coppie quando vengono portando un tradimento, no? Dove la relazione si rompe e bisogna ricostruire qualcosa di nuovo, e utilizzo proprio questa metafora del vaso rotto che si ricostruisce, perché loro, aggiungo una cosa a quello che hai detto tu, ritengono che ricostruendo il vaso con dei filamenti d'oro creano qualcosa di più bello di prima, no? E allora, quando siamo di fronte a un trauma, quando ci rompiamo, se rinasciamo, possiamo rinascere meglio di prima, no? È un po' anche il discorso dell'araba fenice, che rinasce dalle ceneri, in un certo senso. Sì, Sì, vero, anche se bisogna fare attenzione, secondo me, se mi permetti, sempre tra le immagini, l'araba fenice, perché Dante, canto 25esimo dell'Inferno, mi pare, se non sbaglio, forse 20, no, 25, sì, perché 26 è il grandissimo Ulisse, lui parla di questi dannati, che sono i ladri, che vengono morsi dai serpenti e si trasformano in polvere, in cenere, perché bruciano. Da quella cenere rinasce il loro corpo. Ma perché? Perché possono essere eternamente condannati alla persecuzione, no? Per cui è un'interpretazione oppositum proprio dell'araba fenice, dello stesso modello, dire mi rinnovo a vita nuova ogni volta. Sì, è vero, però c'è anche la possibilità, il brutto della medaglia, che è possibile rinnovarsi a morte nuova. Un po' mi viene in mente la profezia che si autoadempie, o tutti quei giochi di copione dove tendiamo a rifare le stesse cose che non ci rendono kintsugi dorati, no? Ci rendono più qualcosa che si itera e che è quasi poco piacevole, ecco. Ok, Patri? Pensavo anche a un'altra immagine, devo dire. Non so perché, nel mentre parlavate mi sono comparsi proprio davanti i mattoncini della Lego, tipo. E devo dire che collegare questa idea di fragilità comunque, no? Come anche c'è questi mattoncini, pensate se per esempio uno costruisce una costruzione fatta di Lego e poi così decide di prendere una palla da bowling e scagliarla contro questa costruzione. Questa costruzione va in frantumi e mi sa un po' come richiamo alla fragilità nel momento in cui arrivano degli eventi che appunto ti scompongono quasi come se fosse, no? E quindi io la persona fragile me la immagino un po' come il bambino che riparte a ricostruire ogni volta la costruzione che poi puntualmente potrebbe essere buttata giù da qualcos'altro. Ecco, in questo senso magari il kintsugi lo posso anche cliccare in un modo. Cioè, la fragilità secondo me può essere anche uno spunto di caos per creare nuove forme. Perché se io voglio prendere questa metafora e immagazzinarla in un'idea nuova, posso dire nel ricostruire magari posso capire che una cosa la posso fare un po' meglio e piano piano magari rendere un po' più stabile una struttura che invece altrimenti sarebbe costantemente instabile. Assolutamente, ma invece della sensibilità che cosa ne diciamo? Perché abbiamo parlato di fragilità, no? Già, beh, sensibilità ha a che fare con sensu, no? C'è un grande filosofo che diceva: Nil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Cioè, non c'è niente nella nostra testa, nella ragione, che prima non sia stata nel sensu, cioè nel sentimento, nel sottopelle, nella pancia. E l'essere sensibili ha proprio a che fare con il sentire le cose nella pancia, all'interno delle profondità viscerali di noi stessi. Io la trovo una proprietà prettamente del femminile, ok? Che qualora c'è nel maschile, viene per lo più magari o ominizzata, cioè resa un po' più crude o nascosta, perché altrimenti anche da piccini ti prendono per il culo i bambini se tu sei un po' femminile, se tu sei un po' sensibile alle cose, perché sei il piagnucoloso, sei il più debole, no? Per cui si tende in questa società a escludere questo tipo di sensibilità, e quando la si trova, cosa molto rara, è una gran bellezza, cioè fa riempire molto l'animo, fa parlare di sé. Per cui io credo che sia un modo di essere piacevolmente funzionale a se stessi e agli altri. Tu, Piero, ti senti più sensibile o più fragile? Ah, io mi sento molto molto sensibile e non altrettanto fragile quanto sensibile. Mi sento non sensibile su alcuni argomenti e non fragile su alcuni, e fragile su solo alcuni argomenti. Per esempio, penso di avere una debolezza dal punto di vista di certi eventi accaduti nella mia famiglia, che quando si trovano nelle relazioni adulte, allora mi fanno preoccupare maggiormente, no? Perché quelli sono stati un po' interiorizzati come eventi traumatici. Però sono legati a determinate situazioni. La sensibilità è una cosa che mi contraddistingue e che mi ha fatto scegliere poi in tardiva, diciamo, vocazione di diventare anche psicologo e di dedicarmi a una relazione d'aiuto, assolutamente. E tu batti? Ma guarda, ti dirò Davide, mi sono ritrovato un po' in ambo le situazioni, cioè la sensibilità credo che sia proprio in generale stata sempre insita in me, anche perché poi non ne so appunto l'esatta radice della definizione, però comunque mi rimanda a questa abilità nell'utilizzo del senso, no? Che in questo caso il senso è il sentire. Quindi diciamo, questo sentire lo riscontro in tanto della mia vita. Poi chiaramente è giusto anche quello che dice Pierre, cioè ci sono determinate cose su cui siamo più sensibili e determinate cose su cui possiamo risultare più fragili. Genericamente ti posso dire, la fragilità è stata una dinamica che ho affrontato spesso. Ad oggi posso dire sicuramente di essere abbastanza soddisfatto rispetto al passato, mi sono ritrovato sia sensibile che fragile, pensa che fortuna. Bene, io tra le due, sì, sono concordo con quello che dite voi, che ci sono situazioni magari in cui possiamo, mi sento magari più fragile rispetto ad altre. Mi sento sensibile al punto giusto, non eccessivamente, ma neanche insensibile. E penso che sia importante avere, come dire, la capacità di essere sensibili, ma anche avere la capacità di filtrare quello che entra, no? Quindi anche sviluppare la capacità di essere imperturbabili in alcune situazioni, perché altrimenti è un po' quello che accade. E ci attraversa e ci destabilizza, e questo sicuramente poi si impara crescendo. Volevo sentire, magari, se qualcuno, se siete d'accordo anche voi, se vogliamo far salire qualcuno che vuole esprimere il proprio parere rispetto un po' a questo tema della sensibilità e della fragilità, se ha anche un parere diverso o si ritrova con quello che noi abbiamo detto. Quindi, nel caso, potete alzare la mano. Venite a parlare qui con noi. Stavo pensando anche una cosa, quindi Sicuramente, Davide, stavo pensando anche una cosa, mentre vediamo se salgono eh? darci Sì. delle testimonianze, che la sensibilità alla fine, in un concetto per esempio di affrontare delle fragilità, secondo me è un po' l'arma necessaria a comprendere al meglio come superare o affrontare una determinata situazione. Cioè, se io penso anche a quello che può essere il contesto terapico, no? Alla fine potrei andare a dire, penso senza dire una castroneria, che il lavoro che il terapeuta compie col paziente, per esempio, ma così come anche un amico con un altro amico, per dire, sia in effetti un lavoro di comprensione, di sensibilità, di allenamento appunto al sentire come poter superare una determinata situazione che ci vede appunto un po' più fragili. Cioè, vuoi dire che la sensibilità è curativa nei confronti della fragilità? Voglio dire che credo che sia una sorta di chiave di volta, cioè la capacità di comprendersi, di affrontare determinate situazioni quando appunto un po' difficili da capire, cioè penso che allenarsi alla comprensione dal punto di vista della sensibilità appunto aiuti a poter intraprendere un percorso efficace. Verso il superare la fragilità di una determinata situazione, un determinato contesto. Cioè, tante volte io Ok. penso non sappiamo neanche che domande farci per stare meglio. Bene, e io vi chiedo allora, vi metto in una situazione di sfida rispetto a questo, e quanto questa sensibilità diventa in molti casi della nostra vita in questa era postmoderna un qualcosa che invece va a nostro discapito, cioè quanto questa sensibilità diventa oggetto di frustrazione, oggetto di limite. Per le cose che diciamo o facciamo, relazionale, ok? Limite relazionale, quanto la sensibilità con tutti i suoi bei aspetti possa di contro avere una faccia che invece è tutt'altro che mi stava arrivando una chiamata, non so se mi avete sentito fino in fondo. Ti abbiamo perso per qualche secondo, stavi dicendo appunto l'altra faccia della sensibilità. Sì, avevo concluso lì allora, perfetto, vi è arrivato tutto. È un po' quello che dicevo prima io, nel senso che a volte essere troppo sensibili ci porta a farci di assorbire troppo dalle situazioni, no? L'effetto spugna, come si suol dire. E quindi che cosa succede? Che se ti trovi in una situazione magari negativa, ti prendi la negatività, come al contrario, se ti trovi in una situazione positiva, ti prendi tutta la positività, no? Sì, effettivamente. Forse manca una parola di raccordo fra quanto stiamo dicendo, che credo sia in relazione alla sensibilità anche, in un certo senso. Spiega meglio. Nel senso che la sensibilità, è vero, può essere tanto utile quanto dannosa, ma se io per esempio vado a pensare di avere a che fare con un soggetto che ha comunque questa caratteristica come caratteristica di personalità, per via di sviluppo di altre cose, eccetera, no? Genericamente parlando so di avere a che fare con una persona sensibile. Se è vero che sicuramente cercare di fargli capire quanto sia importante saper porre un freno alla sensibilità in determinate occasioni possa fare la differenza. Penso anche che mettere in luce le caratteristiche positive di quella sensibilità sia un power up che in chi ce l'ha vale la pena sfruttare comunque, perché può essere una chiave molto interessante per andare oltre anche a un problema. Eh sì, quello che diceva Piero alla fine, no? Cioè il riuscire ad accettare quella parte femminile, tra virgolette, di sé, no? Che può rappresentare una risorsa in più nella lettura di quella che è la realtà, di quello che accade, no? Che dici, Piero? Dico che è verissimo e che da qui nasce probabilmente anche un impasse, cioè una situazione in cui uno va a mettersi in discussione, dice ok, io ho una bellissima qualità, mi fanno le carezze, la mamma, la zia, eccetera, per la mia sensibilità, però fuori prendo un sacco di botte. Dunque, che me ne faccio di questa sensibilità? Gli scenari possono essere molto molto diversi. Perché tu rispetto a una skill, chiamiamola così, un superpotere, cominci a non a dubitarne, però cominci a convertirla in qualcosa che magari, di cui non farai mai la tua arma nel lavoro, nella vita, arma nel senso ovviamente da prendere con le pinze, è brutto il termine arma, però proviamo a trovare un sinonimo che sia una tua capacità, ecco, più che arma, una tua capacità. Adriana, benvenuta, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ti posso chiedere Ciao, ciao. solo prima di partire la conferma che sei al corrente, che stiamo registrando e ci dai la tua autorizzazione, grazie. Ah, sì, non c'è problema. Ok. No, volevo dire a proposito di questa cosa che mi ha colpito dell'essere sensibili e empatici. Purtroppo in questo mondo si prendono un sacco di mazzate, di batoste, perché noi empatici e sensibili siamo molto riconoscibili e le persone oggi purtroppo Molto spesso cadiamo un pochino vittima di queste situazioni. Infatti, alcuni mesi fa, purtroppo, sono rimasta proprio vittima di una persona che, in un momento mio di fragilità, attraverso una chat, mi ha così per mesi e mesi, diciamo, seguita, e io praticamente ero libera, insomma, in quel momento, e mi ha praticamente, in questa chat, ci siamo incontrati. E questa persona praticamente mi ha dedicato per... Io non ho mai vissuto una cosa del genere, per diverse settimane, appunto, attraverso questa chat mi seguiva sempre. Io mi ero proprio affidata a quel trillo che mi dava il buongiorno, mi diceva: dai, sei bellissima, sei brava, le tue foto sono bellissime, mai una cosa. Quindi, e purtroppo a un certo punto, dopo appena un mese, questa persona è scomparsa del tutto ed io sono rimasta come quei vasi fragili rotti, che sono caduta a terra in mille pezzi. In tutta la mia vita mai provato un dolore del genere. Il problema è che questa persona non ammette a tutt'oggi questa cosa, tant'è che adesso io ho rotto con questa persona, non siamo neanche più amici, e praticamente l'ho bloccato. Per cui ora poco alla volta mi sto ricostruendo da me queste cose, cioè la mia vita, le mie cose, però purtroppo oggi sono però una persona un po' diversa, perché già quando mi scrivono non rispondo più, non amo più rispondere. Già prima non lo facevo, non so come mi era capitato quel giorno o quel periodo, perché veramente non ero in me, e comunque dico che, insomma, io sono una forte che si sa ricostruire, perché se fosse stata al mio posto una persona diversa, a quest'ora non so se effettivamente sarebbe riuscita ad andare avanti. Beh, grazie Adriana per la tua testimonianza. È un po' quello che succede di solito, no? Quando ci rompiamo poi diventiamo ancora più fragili. È un po' come quando ci rompiamo un braccio, no? Poi che succede? Quando questo impatto si riprende, noi abbiamo particolare attenzione a quel braccio lì, e ci dimentichiamo che anche tutto il resto è importante, no? E quindi si fa attenzione a non romperci di nuovo. Può capitare. Il problema, scusami se ti interrompo, è che in me si è in maniera involontaria stabilita, purtroppo si era stabilita, perché poi mi sono curata da metà e vabbè, tante cose ho fatto, però si è stabilita come una dipendenza, perché io attendevo sempre che arrivasse quel trillo, non so perché, di chat. Mi sentivo proprio che il mondo cadesse, quando arrivava quel trillo di quella chat che mi arrivava, era come io mi risollevassi da terra, capito? Lo attendevo proprio, non riuscivo a farne a meno, quindi sono effettivamente caduta, ahimè, in una cosa come se fossi diventata una tossica, no? Che di primo acchitto tu ti senti alle stelle, io mi sentivo bene perché c'era quella chiamata, c'era... poi quando è venuta a mancare, è come quando la dose ti viene a mancare, inizi a vedere un buio attorno, così, non inizi più a... Io non avevo mai provato una cosa del genere, non so neanche come ci sono caduta, però effettivamente era come se io fossi dipendente ormai solo da quel telefono, che purtroppo non suonava più. Ok, secondo te sei stata più fragile o più sensibile in tutta questa situazione? Io sono stata in un primo momento, secondo me, troppo fragile. La persona mi ha attraccata perché mi ha visto che era empatica, mi piacevano le cose, provavo tante, cioè avevo dei sentimenti ed ero facilmente attaccabile, per cui già c'avevo sta predisposizione. Però in quel momento preciso, dove stavo in crisi con il lavoro, stavo perché comunque c'avevo mi sentivo sola, insomma, ero molto fragile, perché sennò io avrei capito, avrei sicuramente capito che quella era una cosa, insomma, per per arrivare a determinate, e infatti sono stata fragile e basta. Beh, diciamo che anche a volte sono le situazioni della vita, tu prima parlavi del lavoro, che è in difficoltà, no? Che ci possono rendere particolarmente fragili, e quindi di conseguenza poi basta un colpo di vento per farci volare, no? O per crearci anche l'illusione di una situazione di benessere che poi di fatto si rivela effettivamente un'illusione. Quindi grazie intanto Adriana per la tua testimonianza, spero che ora tu stia un po' meglio. Volevo parlare. Come? No, mi riprendo, volevo solo dirlo che magari di fare attenzione, vabbè, soprattutto, perché come è capitato a me lo so che capita oggi soventi a tante altre persone che addirittura fanno i bonifici e fanno versamenti per talune persone. Vabbè, in quel caso c'è anche la denuncia, lo so, però siccome stanno aumentando, allora io volevo lanciare questo appello a tutti di fare attenzione, okay, particolarmente. Grazie, grazie Adriana per la tua sensibilità in questo senso. Vediamo che cosa vuole dire Paola. Ciao Paola, benvenuta. Ciao. Se puoi dare l'autorizzazione alla registrazione. Sì, sì, va benissimo. Dici, sì, dici la tua. No, volevo rispondere un secondo ad Adriana, anche perché io mi sono ritrovata in alcune situazioni simili a quelle di Adriana e quindi posso capirla veramente, le sono veramente vicina perché non è una cosa scontata, nel senso che, Adriana, ti spiego un po' quello che è successo a me. Io ho ricevuto un'erba tosta, cioè proprio una delusione veramente grandissima, fortissima, che non specifico, però comunque l'ho sentita veramente forte, cioè immaginati proprio un'emozione ampliata all'ennesima potenza, emozione negativa. Che è successo? Che io però poi non è che sono andata a non fidarmi, ok? Questo no, però mi sono desensibilizzata, magari puoi aiutarti, nel senso che io non so se tu questo ragazzo quando è sparito l'hai cercato Adriana? Volevo un po' capire questo. Allora, sì, io l'ho contattato per chiedere come mai non ci sentivamo più, però... Per lui era semplicemente era stata un'amicizia, mi ha detto non vedo il perché dovrei, ho dei miei problemi, perché ci dobbiamo continuare a seguire o fare. E allora per me, insomma, c'è stato sto smacco, perché all'inizio ogni ora mi chiamava e poi all'improvviso non si è fatto più vedere, semplicemente questo. Ok Adriana, allora, scusa il francesismo, ma queste sono stronzate, ti spiego perché. Perché un ragazzo che ha interesse è furbo, cioè ti mette alla prova, nel senso che, e io l'ho testato questo, perché dopo quella bella delusione che ho preso, comunque ho detto ok, allora facciamo, proviamo la psicologia inversa, facciamo sì che io non lo cerco, proprio mi dimentico della sua esistenza, vediamo che fa lui. Ho aspettato 5, 6, 7 giorni, poi a un certo punto mi riscrive, però in quel caso era lui che stava facendo passi con me, quindi si stava coinvolgendo lui. Ecco, questo è un modo anche per non soffrire, nel senso di fare all'altra persona i passi verso di te. Tu falli, no, ma io, però falli in maniera equilibrata. Io l'ho bloccato alla fine, lo so che lui poi mi ha... Infatti quando mi sono allontanato, lui tuttora mi scriveva, ma io l'ho bloccato del tutto, perché lui uscirebbe anche randomicamente. Solo che io non ho capito quella cosa che, cioè, lui non si rende conto, è una persona instabile mentalmente, per cui lui mi scriverebbe anche sporadicamente, ci dovremmo anche vedere, ma io l'ho bloccato, per me è finita, perché è una persona... Scusate. Il problema qual è? Che quando si fa strategia già sei fuori dalla relazione. Però volevo capire un attimo, Paola... Tu ti senti più sensibile o più fragile, rimanendo un po' il tema in tema, allora, del topic? Allora, io non, nel senso, allora, mi conosco bene, però non so definirtelo. È un misto tra un fragile e sensibile. Dipende che punti mi si toccano, però comunque, cioè, io so difendermi bene, nel senso che quando vedo comunque che una persona cerca di attaccarmi, okay, io, anche se sono sensibile, magari anche fragile, cerco di attuare una psicologia inversa affinché questa persona, cioè, capisco con chi ho a che fare. Non so se mi sono spiegata. Sì, ti difendi, insomma, questo è il, esatto, tuo modo di difenderti. Sì. Ok, per non farti, come dire, per non soffrire. Poi sì, perché fatto. Comunque ci sono persone che vanno proprio lo fanno apposta, anche certo. persone che conosco, che magari tu gli dici una cosa, perché sì. questa è una persona, cioè una caratteristica della persona sensibile, che magari tu pensi che quella persona è amica, invece magari poi ti va a, non a parlare male, nel senso a toccare punti fragili quando tu, quando magari è nervoso oppure nervosa. Quindi questo bisogna anche, come posso dirlo, studiarlo bene per non farsi scoprire troppo, secondo me. Okay. Soprattutto quando si è ipersensibili. Grazie Paola, grazie Paola. Rossella, ciao. Ciao, ciao a tutti. Quanto tempo, Rossella? Lo so, infatti è un po' di tempo che non vi sento, mi siete mancati. Ecco. Allora, siccome che oggi sono nel mood dell'ascolto, vorrei passare la parola a Maria. E poi eventualmente io parlare dopo, perché oggi non mi sento molto, molto bene fisicamente, però magari oggi, dopo faccio... Oggi sei un po' inversa. No, non sono inversa, sono proprio... No. non sto bene fisicamente, mi sento molto ovattata oggi, quindi... Va sì. bene. Quindi passo volentieri la parola a Maria, bene, magari dai. Faccio... Cioè... Dai, non ciao, a dopo, Maria! Buongiorno. Ciao. Ciao Maria. Allora, do l'autorizzazione prima che me la chiedete. Grazie. E tutto questo ragionamento mi ha riportato alle mie conoscenze scolastiche, come dire, poiché avevo un indirizzo tecnico, e in particolare alla tecnologia chimica, degli elementi, quando si dice che l'acciaio è duttile. E associamo la fragilità, sempre parlando di elementi, per dire al cristallo, no? La cosa più fragile che possa esistere, ma anche l'acciaio è fragile. Ha un punto di fragilità dove con una temperatura sostenuta, ovviamente, ci sono dei punti, la sto dicendo molto semplice, ci sono dei punti in cui l'acciaio da duttile, che vuol dire che in qualche modo può trasformarsi, può cambiare forma, diventa proprio fragile, quindi si può rompere. Ma parliamo di acciaio. Quindi la fragilità può avere dei, cioè una persona può avere dei punti di fragilità pur essendo d'acciaio. Non so come dire, nel senso che io personalmente... Oddio, per quello che ho visto nella vita mi definirei ma proprio acciaio inossidabile, ok? Con dei punti di fragilità che mi cambiano un po' la struttura chimica del reticolo, ma poi rimango acciaio. Scusate se faccio questo tipo di... altrimenti sarei... cioè, per quello che ho visto io sono sotterrata da un po'. Resta il fatto che sono... molto sensibile, ma non mi reputo assolutamente fragile da questo punto di vista, anche se ho dei punti, però sono momenti, sono episodi, come dire. Poi sento che si sposta un po' la struttura, ma poi, come in qualche modo diceva anche Adriana, no, poi si cambia, perché poi Adriana, anche a me un po' di anni fa è successa la stessa cosa, tranquilla. Quindi, come vedi, è una cosa molto comune. Purtroppo, probabilmente, per le persone sensibili che poi cambiano un attimo, e non diventando necessariamente insensibili, però aggiustando un attimo la presa su questa alta sensibilità rispetto a certe cose, se in certi momenti si è talmente sensibili che si dipende anche da certe cose in modo non proprio sano per noi. Quindi niente, mi veniva questa visuale di questa lastra d'acciaio che addirittura può cambiare forma, e quindi insomma, per il momento mi è venuto di condividere questo pensiero. Grazie. Grazie a te Maria. Perché la condivisione di questo pensiero, sì, nel senso che anche l'acciaio ha le sue punte di fragilità. Tu dici che sei acciaio inossidabile, quindi sei anche fragile, però poi dici che non sei fragile, ma sei sensibile. Ho capito bene? No, allora, ho detto, perdonami, che ho dei punti di fragilità. Ok, ok, ok. Beh, nel senso che se sì. Vai a toccare quelli, ovviamente... beh, ci sta, i punti deboli poi alla fine. Essendo surriscaldati, ecco, è una cosa che tu a una persona metti un dito in un occhio, è una cosa che gli tocchi il ginocchio, che te posso dire? Cioè, sono due punti di fragilità diversi, ma se mi metti un dito nell'occhio, è chiaro che salto, no? Non è la stessa cosa se mi metti una mano, se mi dai una pacca sulla spalla o sul ginocchio, non salti in aria. Quindi dipende da dove vai a toccare, quello intendo, no? Un po', probabilmente chiaro. Tutti. Ecco. Ma io mi chiedo a chi non è capitato di diventare sensibile, soprattutto quando c'è di mezzo il cuore e quando le cose vanno, qualcuno le strumentalizza a nostro sfavore, no? o a proprio favore, se vogliamo vederla da un altro punto di vista. Com'è possibile non definirsi sensibili proprio lì laddove l'amore ci rende così fragili, se vuoi, così innamorati, così belli, così percettivi nei confronti della bellezza del mondo e della vita, e in quel momento lì la sensibilità è acuita, e così come anche la fragilità, perché nel momento in cui viviamo quella sensibilità sembra che la nostra fragilità tenda a togliere barriere, a togliere muretti, no? A togliere, se vuoi, delle resistenze, ecco. E, per cui è interessante quello che hai portato, Maria, perché ci porta un passo avanti ancora nella riflessione. Ne approfitto anche per... ciao Giuseppe, benvenuto, ti chiedo grazie. Già fatto? Ciao, sì. Ciao. E Francesco, do la parola a Francesco intanto che era in attesa. Ti chiedo la conferma di autorizzare la registrazione, grazie. Mi scuso se l'audio è un po' di qualità bassa, ma purtroppo sono in esterna, quindi... Ti sentiamo bene, com'è? Ah, va bene, meglio così allora. Niente, io sono entrato da poco e ho assistito un po' a quello che ha detto Adriana, poi Paola, insomma, e adesso per ultimo la tua mini riflessione. Diciamo che tra essere fragile e sensibile c'è un po' una netta differenza, nel senso che se la sensibilità... secondo me, secondo la mia opinione, riguarda un po' alcuni di noi, la fragilità invece forse riguarda un po' tutti, nel senso anche l'uomo, la donna, che possono definirsi nel senso quelli più forti del mondo, che niente mi intacca, niente può abbattermi, secondo me poi un punto debole, quindi di fragilità lo hanno. La sensibilità secondo me è qualcosa di... che non tutti hanno, che non tutti purtroppo posseggono, anche se devo dire, specialmente se andiamo nel campo un po' sentimentale, forse l'essere troppo sensibili, anche se poi è una cosa naturale, come dicevi tu, Pierantonio, nel senso che quando siamo coinvolti in una storia d'amore, una storia in qualche modo sentimentale, è normale che ci lasciamo un po' andare a quelle sensibilità che ben vengano, nel senso perché... se ci fosse più sensibilità nel mondo e nelle persone, forse questo sarebbe un posto migliore. Però ripeto, secondo me ad oggi essere troppo sensibili può essere identificata come essere troppo debole, no? Nel senso che personalmente, io ho 26 anni, mi è capitato di sentire, un po' parlando anche con gli amici, con altre ragazze, che... le ragazze sono attratte dagli uomini, no? Dei ragazzi più stronzi, scusatemi il termine, fatemelo passare, però il ragazzo è un po' troppo cucciolo, troppo sensibile, viene visto così come un bambolotto, qualcosa di che non ha spina dorsale, ecco. E quindi la sensibilità forse ad oggi viene vista come un punto debole, un qualcosa di non so come spiegarlo, però mi è capitato di parlare purtroppo con alcune ragazze e diciamo, no, il ragazzo può essere bello, può essere fantastico, può essere sensibile, però a noi piace un po' il ragazzo che è quello duro, no? Quello che appunto non ha punti fragili, insensibile tra l'altro, quindi non so perché, cioè, perché comunque la sensibilità dovrebbe essere qualcosa di meraviglioso, è bello avere una persona che si emoziona con te, che si emoziona nel quotidiano, della relazione, però non so, non capisco perché adesso, non so se qualcuno mi può rispondere a questa cosa, perché la sensibilità, specialmente nella vita di coppia, viene vista come qualcosa di debole? Cioè, questa è la mia domanda, nel senso, perché l'essere sensibili, cioè, può essere identificato come un qualcosa che può portare un po' di noia anche nella vita di coppia? Quindi le ragazze ad oggi sono attratte un po' più dal ragazzo non troppo sensibile ma più stronzo, quello che più si comporta male più loro ci stanno dietro, e poi magari arriva il ragazzo carino, sensibile, un po' così, e viene visto un po' come un cucciolotto così da allevare, però poi in fin dei conti sono attratte appunto dal ragazzo meno sensibile. Quindi la mia domanda è questa: fin quando conviene ad oggi essere, cioè dimostrare appieno la propria sensibilità? Perché la fragilità, quello lo siamo un po' tutti, appunto, anche il ragazzo, la ragazza che, come ho detto prima, possono definirsi più forti del mondo, anche tutti abbiamo un punto debole, tutti abbiamo appunto quel tallone di Achille che, se viene appunto trovato, poi fa appunto crollare tutto quello che è in qualche modo quella corazza che ci si costruisce. Però la sensibilità, secondo me, ad oggi nella vita di coppia non so quanto appunto conviene mostrarla, forse bisognerebbe accelerare un po'. Sono un po' più maturo di Francesco e quindi ti rispondo che... Giuseppe, ti chiedo solo la conferma della registrazione e poi vai con la risposta. Confermo l'adesione. Volevo soltanto dirti che l'unica cosa che nella vita è veramente vincente, sensibilità, fragilità, forza, debolezza, è essere se stessi. Quindi una persona che tu incontri in ogni ambito, lavorativo, sentimentale, riesce ad accettarti per come sei soltanto se capisce che tu sei veramente te stesso. Quindi, Adriana, quanto pagheresti per quelle giornate in cui il cuore ti batte? Quanto pagheresti affinché tu possa sentire vibrare il tuo cuore sempre? Paola, quanto perdi invece dall'essere, dal cercare una strategia per conquistare il tuo uomo? Cerca di essere te stessa e sarai sempre ripagata. E se tutto ciò ti rende debole, ti rende fragile, ti rende sensibile, ben venga se lui non riesce a meritare quello che sei. Vuol dire che sarai il prossimo, ma avrai sicuramente incamerato un'esperienza in più. Sì, assolutamente. Sono pienamente d'accordo con quello che gli ha detto Francesco. Io sono me stessa, solamente che attuando delle strategie magari mi proteggo un po', perché non sai dall'altra parte se quella persona ti vuole fregare, perché non conosci mai una persona al 100%, secondo me. Proteggendoti non ti lascerai mai completamente andare, e quindi è bello invece lasciarsi andare, poi succeda quello che deve accadere. Sì, assolutamente, però deve esserci anche l'altra persona, nel senso, deve sapere i punti giusti dove toccare, perché se no io non mi lascio andare, assolutamente. Esatto, io la penso un po' così. Andare poi troppo, come dice Paola, secondo me è un po' un rischio che si corre, specialmente se ci sono appunto esperienze pregresse. Ma corriamolo questo rischio, non bisogna snaturarsi, come dici tu, Giuseppe, nel senso, bisogna essere appunto se stessi, però... Secondo me mostrarsi troppo appunto sensibili oppure troppo fragili, in qualche modo è come se corressimo un po' un rischio di farci... Correteli i rischi, perché sono quelli che vi fanno vivere, sono quelli che vi fanno vibrare. Quelli che fanno male, Giuseppe. Vuol dire che se ti faranno male, accetterai il fatto di stare male, ma comunque lo stare male è un sentire. è un sentire che è molto molto più bello del non sentire nulla. Sì, però appunto se io voglio che mi batte il cuore, cioè che provo emozioni ogni giorno, che sto bene, ho bisogno di stare bene. Se sto male, il cuore non mi batte, ma mi chiudo sempre più in me stessa e poi sono cavoli che magari mi riprendo. Cioè io la penso così. Soltanto per il fatto di stare male il cuore batte. Diciamo che abbiamo un'opinione totalmente diversa su questo. Io sono d'accordo con te, non fraintendermi, nel senso che è giusto essere se stessi, però è giusto anche che l'altra persona ci lega tra le righe. Io la penso così. Io volevo un attimo sentire invece anche cosa aveva da dire Paolo, che ci ha raggiunto. Ciao Paolo. Bentrovati, ahimè potrò essere poco presente, quindi ovviamente accetto la registrazione. Perfetto, grazie mille. Ho provato adesso a salire per dirvi qualcosina al volo di come l'ho vissuto io. Io ho ormai una certa età rispetto ai giovani virgulti che frequentano la chat. Alla room, pardon, e lo vedete, le mie parole sono quelle d'anziano. Ormai non siamo, siamo in due. Beh, oggi ho scritto una frase a una mia amica di penna, lontanissima, ogni tanto mi scrivo, e oggi sto avendo un momento che mi piace e mi spaventa e mi piace. Allora, ovviamente si parla non solo di cuore in assoluto, e quello è il binomio che vince sempre. Il cuore deve avere un'altalena, la mente deve avere un'altalena, il plateau è la morte di qualunque sentimento. La bilancia però deve essere sempre in positivo, questa è l'idea. Io torno al topic, cioè essere fragili oppure essere sensibili, ma perché non esserlo tutte e due? Però la fragilità si impara in modo che non sia non crei danni, impara nel tempo, lo dico a Paola, lo dico a Maria, che sia relativamente giovane, lo so che sentirevi dire mi sembrerà strano, ma ci siamo passati tutti noi. Le armi le abbiamo affilate, gli scudi li abbiamo imparati ad alzare quando serviva con l'allenamento. Ci siamo passati, abbiamo vissuto grandi amori, abbiamo vissuto sicuramente tanti grandi esperienze emozionali, e ripeto, non parlo solamente del rapporto di coppia, perché quel discorso è più ampio. Essere sensibili va sempre bene. Significa potersi mettere in gioco imparando e assorbendo, essere anche un po' empatici le emozioni degli altri, che non è da poco, perché ci insegnano molto le emozioni degli altri, ci insegnano un vissuto, ci insegnano una storia, ci insegnano passi magari che non abbiamo fatto noi, che avremmo potuto fare, ci insegnano errori, ci danno magari uno stimolo, ci fanno capire quando una persona è felice, quando una persona sta raggiungendo, lo sta godendo della strada verso quel traguardo, anche se poi impareremo più avanti che magari ha preso una toppa clamorosa. Essere sensibili, essere empatici ci mette in rapporto col mondo. È un grande insegnamento che riceviamo dal mondo e grazie al quale possiamo imparare anche, tornando a prima, come alzare gli scudi, come fare in modo che la nostra fragilità, perché tutti abbiamo un punto di rottura, tutti abbiamo dei punti di fragilità, come è già stato detto, cito semplicemente perché gli altri hanno già detto bene, però quelli dobbiamo imparare a proteggerli. Se io ho, come stavo detto, un braccio che mi fa male, è sbagliato fare in modo che tutto il mondo giri attorno a quel braccio, devo solo proteggerlo e poi andare avanti con un braccio protetto che mi fa male, ma che proteggo da ciò che può accadere attorno. Con le dovute cautele mi farò forse male di nuovo a quel braccio, perché sarà facile che accadrà, ma ce la metto tutta per proteggermi. Imparerò a farlo bene, per essere me stesso con un braccio a cui fare attenzione e non essere il braccio a cui io ruoto attorno. Un'altra cosa che dove prendono tante botte emozionali e davanti a persone, io ne ho conosciuto una da poco che è bellissima, una donna fantastica, a cui ho detto, dopo esattamente 10 minuti che l'ho incontrata, ho fatto, tu fai dei danni terrificanti nel mondo. È una persona assolutamente solare, assolutamente empatica, assolutamente spigliata, sembra il centro gravitazionale anche tra 100 persone. La metti là in mezzo, ruotano tutti attorno a lei. Perché? Semplicemente perché è non solo esserlo, quindi crea un rapporto di empatia con tutti, uomini, donne, sembra un pifferaio magico. Lei si sposta nella strada, attorno a lei. è incredibile, è bellissima. Quindi il fatto di essere, è una persona sicura di sé, che ne ha passate tante, poi ho scoperto nella vita, però è rimasta con un sorriso stampato sul volto, fa sorridere gli altri, li fa sentire a proprio agio, e questa forma di sensibilità la fa diventare un'eroina della serata, di qualunque posto, per strada si girano a guardarla. Questo che significa? Essere sensibili può aiutare anche nel rapporto con gli altri, quando è supportato da una forza interiore, che però bisogna avere per se stessi, non è da regalare agli altri. La sensibilità si muove verso gli altri, essere forti di se stessi per essere fermi e fare in modo che la fiumana di emozioni che arriva attorno ci aiuti, sia di insegnamento, ma non ci soverchi. Cioè, essere resilienti, fare in modo che ci si possa piegare davanti a questo, ma poi tornare, quando tutto è finito, lo stelo che rimane lì, bello alto, il giorno dopo cresce ancora. Il vento non l'ha spostato, magari i rami secchi, quelli brutti, incrostati su loro stessi, sono caduti a terra. La resilienza, Paolo, è sempre la cosa che convince. Ma Paolo, è possibile davvero scegliere di essere così? Perché quando noi è siamo travolti dal tifone dell'emozione, voglio sfidare chiunque a gestirlo nel modo corretto, no? Ma siamo qui anche per imparare come farlo. Io ho visto chi l'ha fatto, si è preso le botte prima, ha imparato, evidentemente ha imparato. Una persona che ha 50 anni, 49 anni, francamente non lo so con precisione, però evidentemente le botte che ha preso gli sono servite. È un percorso che però forse si può imparare anche prima, la conosco adesso, sì, non so da quanto sia. E non necessariamente con le botte, anche mi viene da dire. No, no, e io conosco la storia di questa persona. È una via, che la cito. Sì, è una via. Certo, esatto. E il bello è poterla percorrere con chi ti insegna, quindi siamo qui per questo, per imparare. E forse con dei buoni maestri si può fare in modo di imparare ad andare in bicicletta senza dover cadere per forza 100 volte a terra. Vero, vero, vero. Beh, che bellezza. Perdonatevi, vi devo lasciare, sì. Ritorno alle mie cose. Grazie Paolo, grazie, rimani in ascolto, assolutamente. Grazie, Paolo. Se posso, volentieri. Sì, tra l'altro sono le 6:06, ci stiamo avviando alla conclusione, e adesso se anche Nick, che era salito, appena finirà la conversazione, se riusciamo a farlo intervenire. Nel frattempo riprendo un attimo alcune cose che sono state dette sia da Francesco che da Giuseppe che da Paolo. Mi piace molto, no, vedere che a seconda di un'età, di prospettiva, noi siamo condizionati nel modo di vedere una situazione o una sua possibile soluzione, no? Una tipologia, quando siamo più giovani quasi temiamo, no? di vivere quelle emozioni, perché la possiamo prendere la batosta. Di contro, dopo una certa età, che non significa dopo i 60, magari anche dopo i 40, e fai la famiglia, eccetera, hai quasi la nostalgia di non sentire più quella roba lì che temevi di sentire all'epoca, giusto per fare un gioco di parole. Ed è interessantissimo come noi possiamo scegliere, proprio in questo caso, scegliere di vivere le cose nel momento in cui vengono. Ecco, il consiglio che forse la vita ci dà in questo, la riflessione che stiamo facendo ci fornisce, proprio quello di non perdiamo, cioè la famosa regola del carpe diem, cioè del cogli l'attimo. Il momento in cui tu, la rosa sta nascendo, è quello il momento in cui va colta, no? Perché poi appassisce. Per cui ricordiamoci che sì, se ci sottoponiamo alla possibilità di cadere, di sbagliare, di cadere nel baratro, sappiamo anche dall'altra parte che stiamo permettendoci di toccare anche il cielo con un dito. Ok, per cui siamo fiduciosi in questo, che la vita solitamente quello che offre è un insegnamento, e poi se probabilmente siamo molto sordi, l'insegnamento arriva sotto forma di bastonate e delusioni. Se invece siamo più ricettivi e più attenti, ci siamo fatti anche un po' di domande profonde e abbiamo trovato non le risposte, ma altre domande che ci hanno portato più avanti nella riflessione, ecco, allora è probabile che noi non finiamo più a incontrare sempre quel tipo di persona, sempre quel tipo di esperienza. Ricordatevi, non è colpa degli stronzi che capitano sul nostro marciapiede, che ci trattano male. È proprio il fatto che questi ci annusano perché noi stiamo vibrando su quella frequenza. Nel momento in cui noi smettiamo di vibrare quella frequenza, queste persone non ci beccano più. È come la zanzara, non sente che il sangue non è giusto, non ti punge. 92 minuti di applausi alla Fantozzi. No, grazie, Antonio. A scena aperta, a scena aperta. No, perché allora, tra l'altro, mi hai letto nel pensiero sto giro, veramente, cioè è duro, avrei detto più o meno le stesse identiche parole, perché quindi senza neanche metterci d'accordo abbiamo entrambi assecondato un flusso, seguito, e abbiamo pensato le stesse identiche cose. Ci stiamo frequentando un po' troppo, Pierantonio, mi sa. La spiegazione sintonia. Jung la chiamerebbe sincronicità, che mi piace molto di più, ok, perché finisce per essere molto scientifica. La sincronicità viene spiegata proprio dal punto di vista anche meccanico, ma le neuroscienze stesse, ragazzi, hanno spiegato che la sincronicità di Jung fa parte dei neuroni specchio, cioè noi abbiamo delle cellule dentro di noi che imparano da quello che vedono e cominciano rispecchiando a fare le stesse cose, per cui questo principio della vibrazione all'unisono, no? Che funziona così: quando tu hai due corde di chitarra, devi accordare il La suona a 4,40, a 4,40 accordi il La, non accordi il Mi, d'accordo? Per cui se tu tiri un La che suona a 4,40, ciò che è in La vibrerà così, per la stessa modalità. E questo significa conoscere la propria frequenza di vibrazione, che forse è prima di tutto quanto, ok? Prima di conoscere le persone, è necessario che noi conosciamo qual è la nostra frequenza vibratoria, e allora lì sappiamo riconoscere noi dove siamo e quelli vicino anche. Bene, vai Pat, fai pure la... No, volevo sentire un attimo velocemente Nico, che cosa aveva da dire. Ma Nick è al telefono. Ah, il telefono? Io sono almeno che non gli sia rimasta accesa la cornetta. Se ho ricevuto una telefonata, c'era un baco, per cui aprendo e chiudendo il microfono svaniva la cornetta. Nick, se ci senti, apri pure via. Ma mi sa che invece è ancora il telefono. No, mi sa che il bug ce l'ho io, che usando da Android ancora non mi ha implementato il fatto della chiamata, sicuramente. Ok. Che dire, sicuramente una room molto interessante, piena di spunti. Mi piace molto che quello che è nato da questa room sia stata condivisione anche dal punto di vista personale, di proprie visioni, di esperienze, eccetera. Una cosa che, per carità di Dio, bene o male capita sempre. Però oggi ho sentito molto forte come caratteristica, e quindi vi volevo anche ringraziare per questa capacità un po' di mettervi in gioco al fine di portare avanti una discussione, una comprensione che potesse essere quanto più utile a tutti. Quindi non so se voleva aggiungere in chiusura qualcosa Rossella, che vedevo forse stavi applaudendo, non lo so, Ross. Ross oggi sta bene in ascolto e la lasciamo in ascolto. Assolutamente. E allora anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Patrick. E ringrazio a mia volta tutte le persone che hanno partecipato, chi ci ha ascoltato. Questa è Psicologia Italia. Noi cerchiamo di andare live tutti i giorni, a parte quando non ci riusciamo, ok? La filosofia è questa, per rendere giustizia ad argomenti di psicologia attraverso un'indagine che passa sia con i nostri modi di vedere diversi le cose, sia attraverso i vostri preziosissimi pareri. Per cui ci vediamo domani, dopodomani. Sapete che il sabato abbiamo la stanza esperienziale, e significa che se qualcuno vuole proprio portare in gioco una propria dinamica, durante le sedute o i circoli del sabato si può fare e si va a lavorare. Non abbiamo determinato, almeno non ho l'agenda qui, non so dirvi se sabato questo abbiamo la parte, il lavoro con i sogni. Non abbiamo ancora determinato, te lo dico io. Ecco, bene. Per cui lo vedrete a breve, lo vedrete all'interno del calendario Psicologia Italia, lo vedete cadenziato, e poi se volete venire a partecipare siete benvenuti. Grazie. Se mi permettete un saluto buffone, perché a questo punto mettiamola sul musicale. I Police, certo, scrissero una canzone che si chiamava Synchronicity. la cui traduzione a un certo punto fa, e chiudiamo con una nota simpatica, un principio di collegamento. Vi faccio la traduzione. Collegato all'invisibile, quasi impercettibile, qualcosa di inesprimibile. Se agisci come pensi, il legame mancante. Sincronicità. Fantastico, fantastico. Grandissimo. Ottimo. Pat, perfetto. Ciao a tutti. Vi ringrazio e buona serata. Ci vediamo questo sabato. Ciao a tutti. Sì, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Ciao, a presto.